lì. Si chiamava Caravan di Andrea Costa. Beh, allora. Ha fatto il farabutto, non pagava i contributi, faceva le buste a pagare a fare, c'è un casino. Vabbè. Aiaia, che casino. Critica. Poi adesso lì a scuola cerco di fare quel possibile, sto chiedendo se hanno qualcosa da fare, da pitturare. Adesso mi hanno dato due risposte, ce ne hanno dato due, uno mi ha detto che c'è roba da fare via Ozzieri, perché era da Ozzieri, in più una in un paese, a Ussi, trovatissi, che è tutta la casa, c'è da fare, mi chiama. Non mettiti sulla casa, pitturo, aggiusto computer, vedi brochure, so fare l'idraulico, ecco, mi hanno già fare tutto, come operaio espresso. Vabbè, non è compagno, ma non è che siamo bravo, per cambiare un rubinetto, un flessibile, adesso se più uno sta da bagno, non è un problema per me, capito già. Cambiamo uno scarico di bidet, adesso quello che è, non ce la fa, invece io gli ho cambiato, tutto un rubinetto, commissionatore, fatto io, più tutto lo scarico, questo è quel blocco che c'è per cantare la lavandina dove scende l'acqua, tutto quello l'ho cambiato oggi. Quello lì me l'ha cambiato Fabio, lo scarico, perché c'era intasato e ha dovuto rompere il muro, tagliarlo con la mola, eccetera, eccetera. Me l'ha cambiato Fabio. Chi è Fabio? Mario, il ragazzo di Alessandra. Ah, ragazzi, sua figlia? No, lui. Alessandra, quella che lavorava al bar prima, che tu non puoi vedere. Ah, ho capito. Fabio, ho capito. E me? L'ha fatto lui. Allora, se non scendeva più, ha provato con la pompa, nuda di là, ha provato a entrarci una specie di ferretto pieghevole, cose nuda, è proprio lo scarico dal muro che si è intasato. E siccome l'ha collegato anche alla lavapiatti, che hanno dovuto proprio tagliarlo con la mola, scavare il muro, rompere le mattonelle, tagliarlo con la mola e poi mollarlo dove c'era la filettatura, e messo il tubo nuovo. Quando questo? Da poco? Sì, sarà un paio di mesi. Dovuto spaccare il muro allora? Cosa? Ha dovuto spaccare il muro? Eia. Però poi me l'ho aggiustato io, l'ho fatto io, il muratore l'ho fatto io. Mi sono comprato, ma come cavolo si chiama? La malta la conosci? Sì. Ma il colore della mattonella è proprio preciso. Vabbè, non si è preso già, molto, per questo lavoro. No, è molto onesto, capito? 25 euro mi fa una cosa del genere. Ti ha voluto bene, dai, nessuno mi chiami, ci ha messo molto a farlo. E diciamo che è venuto verso le 3, ha fatto tutti i tentativi, ha visto che non riusciva, e c'è già, è bloccato più avanti, quindi bisogna aprire botte salone, dove sono nuova. Ho detto farlo, dove sono nuova. Facciamo. Ma l'ha fatto bene, perché adesso funziona tutto molto bene. E mi ha cambiato molte cose a casa. Ah, bravino Fabio, ce la sa fare il lavoro, sì. Vabbè, perché fa un tipo di lavoro, ma anche io mi arrangio, dai, non arrangio quel, il mio piccolo. Quindi, per esempio, a casa mia, in cucina non ce ne va niente. Non ce ne va, in bagno, perché le trovi in bagno, in cucina, e se ne più la vasca. Cioè mia madre è un po' così, fa i fattisuri, no? E ci buttava tutto nel lavandino. Tipo la pasta del brodo, il riso, c'è tutto intasato. Tutto caffè, non la prima di caffè. Allora mi sono fatto prendere la pompa tramite Claudio, da quello di Sorso, un paio di compatte, abbiamo detto il problema. Infatti a capo di forza è tagliato, l'ho dovuto smontare tutto il sifone, pulirlo bene, si tirano qui dove, no, ma io non lo so, qua paghi, paghi, qualcuno lo puoi fare. Quella continua a buttare roba, non ci non butto niente, che la butta, il cane la butta. E il cane, già un casino. E una pompa porta come di soldi. Comunque sa che se rientro al comune se mi richiamano, ma la macro prova la pompa, non si sa mai. Poi quando capita che porti un bagà, ma come si conta? 400 o 500 euro? Non so che ho messo, no, 200 euro mi pare, così mi stava dicendo Fabio, su 200 o 250 euro costa. E comunque ti sto dicendo che, guarda, che è utile quella pompa. E io nell'avvio ci ho messo quella specie di coso di gratta a bucherellini per bloccare la roba, allora faccio scendere l'acqua, si blocca lì, poi dopo ce la butto nella pattumiera, poi faccio scendere di nuovo l'acqua, lo pulisco bene e la faccio scendere di nuovo nella pattumiera, cioè non la butto mai la bandita. Allora, vabbè, chi è? Va? Un fantasma, un fantasma, buonasera. Ui, ancora in giro, sì. E ancora in giro, sì. Mi sento male. In macchina sto, che vuoi se ce la sto facendo male? Senti. Chi è che mi sta dicendo che sto facendo male, gamba? Il signor da tutto a posto. E chi è? Chi è? Questo direzione Urbia. Ma sai che è venuto a scaricare l'altro giorno? Torellino, come si chiamava? Spacca tutto. Venuto? Torellino spacca tutto. Torellino spacca tutto, e chi è? Lo conosci tu, Luca? È la Puglia, Torellino. Poi c'è un incontro su Facebook. Ciao, Daniele. Luca, io ho anche la sua telefonia. Dai, un attimo, già, il mio Luginsi, Luginsi. Ma è che adesso lo mette sul furgone, tu non vuoi buona fare, non vedi su. Sempre qua, sogno. Come sto uscendo di radio? Bello, bello. Ah, ma dai. E come mai ancora in giro per lì? Ma, Daniele, come sei ancora in giro? In macchina. Ah, ma è dura, sì. In macchina. Oh, andava come 45, niente. È morta oggi. È morta. Aspetta di non staccare tutto, non te lo ricordo. No, non me lo ricordo. Che lavorava con Walter. Sì. Con Walter Diabolico. No, no, non me lo ricordo. Ma non l'ho mai sentito. Ormai lo sai, sento tutto. Oggi mi ha fatto anche una preparazione alla conferenza. Al telefonino, era medesimo, abitante. Chiamato degli amici pugliesi. Mi ha fatto una conferenza, poi mi ha dato, chiamato da qualcuno, tu rispondevi, faccia il gelo. Allora, mi hanno fatto vedere un programma che tu pensi una persona può essere importante o non importante. È il telefono che azzecca praticamente chi sta pensando. Certo, te l'ho visto. Ma per esempio non è più alta con l'antenna. Io la penso le cose di altri 2 metri. Quale? La tua. Ah, va bene così. Va anche troppo bene. Praticamente è esposta troppo al vento e se la alzo troppo poi magari mi dà problemi. Ah, guarda che è 5 metri. Ah, no, se la va troppo magari, ho visto. Io, dai ragazzi, io vi saluto che sono arrivato. Fate la buona, buon proseguo di serata, se continua più tardi, se non è possibile. Ciao, ciao, Vanni. Luca, ci sei? Non c'è più nessuno. E tu non sei Marco Condor? Cava cava! Questo pipistrello! Ma ti la ridi? Oia oia, sono tornato adesso a casa, ero con Pomponio, vediamo se c'è in radio. Pomponio, ci sei? Sì? Me lo vedi? Vabbè, buon pucci. E poi Gianni? A passeggi, a passeggio. Faccio una bevuta, più che altro, al freschetto. Allora l'hai cotta Marco Condo? No, vedete che lì ce ne vuole cuocere Marco. Si direbbe perché è mingherlino. Solitamente i mingherlini reggono poco. Io già sono assegno, eh. Ah, con un asubaro. Già, sì. Io stasera ho bevuto un bicchiere di birra. Non mi ha fatto niente. Però a me me ne bastano due che mi gira la testa. Anzi, me ne basta anche uno, come l'altra volta. Però figurati se bevi Campari. Eglia, quello è vero. Ascolta, com'è il segnale? Guarda un po'. 3.30. Guarda bene. Così? Ah, così. Stavo 20 a 9.30 quasi. Eia, quello era il linearetto. C'è a posto? Sì, sì, il linearetto era a posto. Adesso è arrivato l'alimentatore. L'alimentatore, così ho potuto alimentare i lineari. E che alimentatore ha preso là? Allora, sul sito diceva Lafayette, però è arrivato un Proxel. Sì, vabbè, sono tutti quanti di quella serie lì, sono uguali. E che di marca Prox, poi ci sono marca Tirafaiete, qual è quello stretto stretto? Allora, questo è largo 13-14 centimetri, è alto 6 centimetri. Ah, va. Da quanti ampere? 30, 32 di picco. Sì, già va bene, sono di quelli con la scheda, eh. Con la scheda? Siete trasformatori. Eia, quelli, come si chiamano? Switching, sì, perché costano poco. Pensa che un 30 ampere a trasformatore l'avrei pagato roba di 260 euro. Non lo so, Antone, avanti. Sì, solo. Ma già va bene, ma è stata la voglia. Ci vuole anche che c'è un 550 volendo in casa. Sono quasi 20, 25 ampere, 26. adesso vedo che con 100 watt di fitta, 100, assorbe solo, come dice, 6 ampere, o poco più di 6. Ma è giusto, perché non assorbe 5 watt, neanche assorbe 5, non assorbe neanche 2. Allora, ho provato questo baracchino. Allora, questo baracchino ha 10 watt e assorbiva una, almeno di strumento, e poi che ne so se lo strumento è rapido, ho 10 watt, un ampere e mezzo. Ma è così, giusto. È giustissimo. KK. Con 50 la valle laterale 600. Allora già ho fatto la prova, sono andato in mano laterale e ho fischiato in modo da dargli 20 watt di ingresso e di uscita sono sempre 100. Vabbè, dipende forse dagli apparecchi. Ma anch'io mi sarei aspettato di più. Scusate un attimo che vado su 40 a provare. Fischia, fischia, vedrà che pompa. Cosa rita, eh? Allora, con 20 watt di ingresso era sempre 100 di uscita, non è da 200. È una cosa in effetti un po' strana che ho visto. Dovrebbe darne, non dico il doppio, ma quasi. Quella che si trovi detto tu stasera, Marco, cos'era? 4, 6, 4, cos'era? Quale? Dimmi, non mi ricordo. Vestito di quei parecchi montabili, com'era? Le galate, 4, 6, 4, cos'era? Adesso mi ricordo. 4, 0, 9. Scrivo solo 4, 0, 9. Ti si apre il sito dopo che fischi. Adesso vediamo 4 0 1 0. Un bio. 80 centesimi la bottiglia. Ciao, ora ci scendo. Vedi, la stico se non puoi cedere con la pinna e muora. È un virus quella. Una pinna le metti appena appena fresca in un frigo e già ci scendono bene. Praticamente con la pippa mi fa appoggiare la la postazione mi fa appoggiare senza registrarmi. Ah, PayPal mi fa acquistare, però non mi ricordo i passaggi adesso. Eia, anch'io. Io uso invece una carta di credito prepagata appoggiata a PayPal, che è molto molto pratico. Sarebbe? Sarebbe, ma la carta? Qual è il nome? La carta l'ho fatta al Monte dei Paschi, perché mi pare la gratuita o roba del genere. Sì. Ogni tanto la ricarico, dipende cosa devo comprare. Poi vai su YouTube, scegli il pagamento. Come scegli il pagamento, mi pare si apre PayPal, metti la password e il nome utente anche di PayPal e paghi. E poi automaticamente ritorna alla pagina YouTube, di eBay. No, vabbè. Diciamo che la postazione ha appoggiato la PayPal, sto comprando lo stesso, c'è un giorno di balle, fare un ricorso, vediamo se mi falla, ma comunque se vediamo. Beh, non è poi così seccante Luca, sono due passaggi mi. E poi i vantaggi che ti dà. Cioè qua trovi l'impossibile, roba che a Sassari non troverai mai, nemmeno lontanamente. Ma poi sono d'accordo con te. Qua, la solita storia, qua ti serve anche un qualcosa di elettronica, di cose. Noi non ce l'abbiamo, non ce l'hanno mai. Qua l'ordini dalla Cina, ti arriva, magari ci metti un mese dalla Cina, però ti arriva. Sì, sì. Ma dovevo prendere anche un portatile, ma adesso vediamo. Mi Luca, ho guardato proprio ieri. Allora, il Baofeng UV5R VEU portatile, adesso costa, ho fatto il cambio, no? Perché lì è in dollari, 30 euro solo, 30 euro e spiccioli, una cosa incredibile. Ascolta, se non acquisti ti do i soldi, me lo compri? Ho sbagliato Luca, però non è da eBay, è da il sito 409. Vabbè, se io ti do i soldi tu me lo acquisti, se te interno va bene, di più no, già sono fuori, se vuoi acquistare non parliamo di un problema. Allora sì, però ti devo spiegare. Allora, l'apparecchio costerebbe quella cifra spedito se la dogana non lo tocca, non paghi altro, però se la dogana lo intercetta e lo controlla, vuole sapere qual è il costo reale dell'apparecchio. In poche parole, l'apparecchio vale 30, il venditore dichiara 10 euro sulla bolla. Quindi se passa non succede niente, se dovessero controllare ti fanno pagare magari un po' di dogana. Tipo? Non so quanto sia, ti fanno pagare un fisso più un percentuale sul totale. Invece sai come faccio io Luca? Ordino il portatile, ordino qualche accessorio e lo ordino con DHL, costa 14 euro in più, però anziché un mese ti arriva in 5 giorni. E DHL ha una sua dogana interna, diciamo, che fa passare molto più facilmente le cose. In più il venditore dichiara un prezzo basso, cioè un valore basso, si chiama evasione fiscale questa. E l'apparato ti arriva in 5 giorni senza dogana. Ma quanto la cifra? 14 euro la spedizione con DHL. Comunque Luca, ti vuole dire di aspettare un po', perché forse un'altra persona si ordina lo stesso apparecchio, io pure. Quindi se aspetti un po' magari facciamo un ordine unico e ci dividiamo la spesa di spedizione. È un po' quanto, non lo devo aspettare, boh. Cosa ne so? Tu poi ce l'hai il numero, segnati il mio numero. Perché io non lo uso più perché ho cambiato il cellulare, non era memorizzato nella scheda ma nel telefono. Sono telefono, non ce l'ho più. C'era il mio numero. Aspetta che prendo il cellulare. Vadi. 3, 4, 7, 54. 54, 2, 0, 1. Ripeto, 3, 4, 7, 54, 54, 2, 0, 1. Eia, adesso lo dà Falcone. Non è problema. Tanto quel numero lì è provvisore, poi gli ha solo l'altro nuovo. E qualcosa sta cazzo. Allora, aggiunge la rubrica, seleziona. Ecco qua, adesso mette il nome. Poi fa lo spiro, poi non memorizza il tuo. Poi la parola è per sapere. Dopo le popolosi di saper ascoltare, non per altro. Eia. Hanno una sensibilità maggiore degli scanner, molto più sensibili come portatili. Beh, non è un problema. Appunto, se la ricezione è molto migliore di uno scanner, per esempio. Vabbè, non c'è problema. Dico, l'interessante è che qua penso che abbia una tutta batteria, giusto? O una sola? Aspetta, mi hai detto se ha una batteria. La batteria è a litio. Ma la doppia batteria o è una? Una. La seconda la paghi a parte, ma costano pochissimo. Costano 6 euro, 8 euro, una cosa del genere. Forse anche meno. Allora, loro ti danno apparato, batteria, antenna, carica batteria, auricolare, microfono e aspetta, fammi pensare. E a seconda di che modello è ci danno anche il cinghiotto. Ma ascolta una cosa, fanno quelli da... Qual app è questa? 136, 174 e poi 400, 470, no, mi pare 410, 480. 405,20 c'è scritto. No, quella. Va bene, come sapere, ma come sapere, se no io, eccomi, guarda, io vado qua, aspetta, faccio un esempio, no? Perché non ho visti tanti, sta cosa, ma ha cambiato la opzione internet, no, vaffanculo, allora, logo, grazie, non c'è bisogno, ho guardato il PC, ho una scheda, aspetta, allora, se io vado qua, no, vediamo se va cambiato, ma fa niente, sì, un'abilità nelle palle, no, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti, HF, UHF, UHF, UHF, portatili, no? Ce ne sono tanti, vedi, guarda qua, guarda, è venuto piccolino, dice da venditore, lo vende, portate, VHF, c'era 44, 430, 59 euro più 8 euro di spese, venditore piccolino, bello, tutto tante, tanti. Mi devi dire che marca e che modello? Quindi è un po' una rottura fare tutto con la rotella, però esce bene e riceve altrettanto bene. E lo smitter è anche, diciamo, abbastanza fedele. Cioè, l'R5, ma un VR5, sì. Guardate, qualche cosa, garanzia ufficiale, 59 euro più 9, fa 60, 68 euro. Bellino. Lasciamo vedere. È bellino. 59 euro. Più 9 euro di spese. È bellino, Normalmente. Caratteristiche molto simili al fratello UV3, plus manuale italiano, cartaceo importante. Allora, da 25 mega, non c'è la potenza, povero, eh? Ah, 4 watt, 1 watt, non può essere. Così pochi watt dal portatile. Certo, Luca, tutti i portatili hanno 4 watt, salvo rari casi. No, io il mio dava, allora, forse il mio dava 25, comunque un piccolare, piccolino, ma bellino, guarda, adesso ho finito l'avevo venuto. 25 in V, cioè in U, scusa, 50 in V, era una bomba, facciamo che aveva portato Torres, in VHF, poi 9,30. Cacchio, e i veicolari ce ne sono certi belli, cacchio, da scendere la bava. Comunque Luca, quel UV5R, 59 euro in Italia, noi in Cina lo paghiamo 30 euro, spedito. Ora poi ci avremo alcuni, non c'è problema, tanto dopo un'occhiata qua, ma dentro a Antonello, ma già devi fino a quattro, lui lo si è addormentato. Bluetooth sotto casa, un attimo. Cazzo, il Facebook non è solo HF, è anche UHF. Non capisco, sono quelli di roba, ho tre prezzi, 148, 241, questo cosa ha usato, scanner. Sì, c'è tutto il UHF, UHF, FM, portate dualmente con scanner. 214 euro. Poi Kenwood, TF, 149 integrato, 279 euro. Poi alla fine è portato, non è con quello, no? Tanto 400 euro, via ISO. Minchia, ora ragazzo è d'oro, Ecco qua, 400 euro. Qui già base, 95 euro, forma. 5 watt, nuovo, grazie a 2 anni. Beh, 100 euro sto qua, VU sempre. Mi farà sapere qualcuno, ma si può adesso? Vox Radio KG UV2D. Dice, ci guardo, che per Mandy Scan. È roba cinese. È roba cinese. No, vabbè, fatemi sapere. Ricordati che da su eBay costava un po' di più, perché c'è il costo di eBay, e dall'Italia costa ancora di più. Sai cos'è Luca? Se lo compri in Italia, loro ti danno 2 anni di garanzia. Se lo compri dalla Cina non è a garanzia. Quello è il punto. Vabbè, non è un problema. No, guarda, io se vedi il mio, sono Nicola, guarda, è ESU, proprio è traibile, bellino, era proprio bello, piccolino, ma l'ho preso là dietro, bello, ho bello apparecchietto, vabbè, poi attualmente, mi banda. Aspetta, non mi ricordo qual è la sottile differenza. Che cosa? Tra dual band e bibanda. Differenza che ti segna le frequenze nel display, sia una che l'altra. Però aspetta, la differenza non era solo quella, Luca, c'era un particolare che uno può trasmettere e ricevere contemporaneamente, quindi full duplex, l'altro invece può operare solo in una banda per volta, cioè se trasmetti non ricevi, quella era la differenza, ma non mi ricordo qual è l'uno e qual è l'altro. Una volta la sera lo Claudio, allora praticamente allora come la Big Band, forse aspetta, il Dual Band, il Dual Band è quello che avevo io. Dove se volevo cercare di Big Band, se non sbaglio, però ce l'aveva in macchina, sempre potere estraibile, cioè praticamente la display ti fa vedere le due frequenze. E da questo in contemporaneamente. Per esempio Luca, l'UV5R ti fa vedere tutte e due le frequenze, però quando trasmetti su una banda non senti nell'altra, capito? Invece se trasmette e riceve anche nell'altra banda allo stesso tempo è full duplex, diciamo, da, si dice. Ma... E poi in macchina ricordati che questi Baofeng hanno il passo a 6,25 e hanno la modalità narrow, FM stretta, quindi lo puoi usare, è compatibile con i PMR completamente, capito? Con i PMR 446. Come sapere, dai. Ma non siete pronti. Altrimenti io mi posso anche giocare, non di più perché no, non, adesso non fa. Poi quando la possibilità. Mi compro un veicolare. KK, vediamo se c'è Gianni ancora. Gianni, ci sei? Gianni, c'è Dromito. Alessio, c'è Dromito anche tu. Via, non puoi. Allora, c'è scritto qua, c'è piccola. L'accidente 409 shop, questi. Signali, perché su di vivo. C'è una lampia di discussione di legge. Infatti calzetto lo trovi anche lì, in quel sito dove è tutto di andare. No Antone, io speravo che si trovasse lì, per dire. Invece l'unico posto che lo vendeva era sul sito suo, sul sito della Fitong. Però poi non ho saputo altro. Non c'è scritto, sono scuro, insomma. Dove c'è una registrazione di un italiano che c'era. C'è un video, c'è. Figurati. Gingo di Roberto, il K. 8QQMKO. Conta che il Fitong credo che in Italia ce l'abbia da solo un paio di persone. E quanto c'è trovato di nuovo di scrivere qua? $400 e infatti e sai quant'è? 300 euro o poco più. Sì, ma non è buono. Cioè, va bene. Come ne fanno? Ne fanno bene, quindi. Adesso va fuori da qua, vero? Non ci impegno di altra cosa. Ricordati però che ha dei limiti, eh. Per esempio, non ha molte, non ha molti strumenti che un apparato HF amatoriale ha. Che ne so, il comando della larghezza di banda, non so, tante cose non ce le ha. Diciamo che è più spartano, però trasmetti ricevi, e anche bene. Sì, lo so, ma la cosa. Musica di attacca, la accendi. Questo scanner, non lo so, è come viscoso. tutto. Devo pulirlo bene, deve essere che con le mani sudate l'ho toccato. Adesso è tutto ciò. Asciuttalo. Poi, a mazza soli siamo rimasti. Dillo bene. Non sono cercato solo. Vabbè, tutti vi invito a cercare un comandante di vostro questo palazzo. La cosa la vera di difficoltà. Questo saggio intorno a 900 euro circa, con 100 euro. Se hai delle buone statistiche, penso che diventerai un presto presidente, come io sarei voglio. Veloce in tutto il mondo, facendo molto di tutto, va bene, così pure. Non ho capito una mazza, Antonio, sentivo, sento come un rumore di ventola, sento shh, e poi stavi parlando una lingua strana. Sto guardando un coso, un sito, come si chiama, Magic Phone, sto guardando. Comprato un paio di volte, una volta l'Albrecht 5008, mai l'avessi preso, anche quello in assistenza, anche quello deve tornare, mi devono tornare due baracchini, e poi ho preso quello, il Excel Multi, Midland Alan Excel, Yeah.